città si chiude dentro di sé. Ragazzo solo in cerca di un futuro che non arriva mai. Parole grosse che come lacrime nascoste non vanno giù. Bella sarebbe la vita, piena soltanto d'amore, d'amore. Paura, solitudine, tutti insieme va subito, per molti si fa tardi, ogni giorno di più. C'è chi non può sperare più. Soli, ho visto gli angeli custodi volare Yeah.